Medico, io il malato in questo corpo lacerato. Pur essendo vero Dio, ti sei fatto uno di noi come servo obbediente. Tutti infatti hanno peccato, sono privi della gloria, vengono giustificati per la tua grazia. Cristo Gesù. Solo per grazia c'è redenti. In Cristo Gesù. Quando povero grido, quando povero ti invoco, ti cerco. Liberaci tu. Io la sabbia, tu la guida dei tuoi figli in questa valle desolata. Pur essendo il creatore, sei salito sulla croce, per l'amore ci hai salvati. Tutti infatti hanno peccato, sono privi della gloria, vengono giustificati per la tua grazia. In Cristo Gesù. Solo per grazia c'è redenti. In Cristo Gesù. Quando povero credo, quando povero ti invoco, ti cerco. Liberaci tu. Cerco. schiavitù, liberaci tu.